171. Pallottole di semolino. A me sembra che questo fritto riesca assai bene e che compensi la fatica che si fa a pestarlo. Semolino, grammi 120, burro, grammi 15, farina di patate, una cucchiaiata colma, pari a grammi 25, uova uno intero e due rossi, zucchero un cucchiaino colmo, odore di scorza di limone, latte decilitri 4. Cuocete bene il semolino nel latte col detto zucchero, aggiungendo il burro, l'odore e una prisa di sale quando lo ritirate dal fuoco. Quando sarà ben ghiaccio, pestatelo nel mortaio con le uova. Prima i rossi uno alla volta, poi l'uovo intero. Versate per ultima la farina di patate, lavorando molto col pestello il composto. Versatelo poi in un piatto e gettatelo in padella a cucchiaini per ottenere le pallottole alquanto più grosse delle noci, che servirete spolverizzate di zucchero a velo quando avranno perduto il forte calore. È un fritto leggero, delicato e di bell'aspetto.